100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. L'Italia diventa sempre più un paese di migranti, nel senso di italiani che espatriano e di extracomunitari che approdano da noi. Sono 4,8 milioni i residenti all'estero, ma ciò che più conta è che crescono velocemente. Nel solo 2015 sono stati 107.000 i concittadini che hanno scelto di passare il confine. Lo ha rivelato ieri il rapporto Migrante, se ciò che più conta è che aumenta la percentuale di giovani in fuga, passato ormai al 36%, e, caso forse inatteso, sono la Lombardia e il Veneto le regioni che più cedono i ragazzi migliori ad altri paesi. In termini più generali, siamo di fronte al secondo paese più vecchio del mondo che sta cedendo parte dei suoi talenti più giovani ad altri paesi, prima di tutto la Germania, con un boom recente per Brasile e Spagna. Nel contempo aumenta la presenza di profughi e di richiedenti asilo, nonché l'occupazione nelle basse qualifiche coperta da personale extracomunitario per lavori che gli italiani non vogliono fare più. È in atto quindi un fenomeno di divaricazione sociale su cui l'Italia deve evidentemente riflettere. Non è necessariamente un male, perché i giovani millennials si considerano la prima vera generazione mobile e scelgono l'estero perché la considerano una condizione di realizzazione, una scelta per coltivare ambizione e soddisfare curiosità. E non è un caso che i maggiori contributori al flusso provenga proprio dalle regioni più ricche del paese. Tuttavia, un'Italia che appare destinata a restare soltanto la patria di anziani e di immigrati rischia di alimentare conflitti sociali profondi e assai difficili da debellare. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il quantitative easing, il programma di immissione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea attraverso l'acquisto di 80 miliardi al mese di titoli pubblici e di selezionati bond privati, andrà avanti fino alla fine di marzo e oltre se necessario. Ieri lo si è desunto dalle minute dell'ultimo board della BCE, nelle quali non si faceva alcun riferimento a una riduzione degli acquisti di titoli, operazione che va sotto il nome di tapering. Oggi la conferma è arrivata direttamente da Mario Draghi, presidente della BCE, che a Washington ha parlato di politica monetaria e di ripresa economica. Si conferma che per la BCE ancora molto deve essere fatto, sia per recuperare adeguati livelli di inflazione, l'obiettivo resta intorno al 2%, e molto va fatto anche sul versante della crescita, che sta continuando a ritmi moderati, anzi, ha detto Draghi, con uno slancio meno vivace rispetto a quanto si era in precedenza immaginato. Pesano molto le incertezze politiche ed economiche, sia in Europa, a partire dalla Brexit, sia a livello globale, con il rallentamento in atto in molti paesi. Quello che Draghi vuol dire è che i paesi europei non devono perdere ulteriore tempo e, grazie alla politica monetaria accomodante e ai tassi ai livelli minimi, devono accelerare l'attuazione delle riforme strutturali. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.